sui, che brutta faccia! E ubriaco, chi sarà, chi sarà? Ehi, di casa! E maledetti! E maledetti! Ehi! Cosa vuol, signor soldato? Ah, sì, sì! Qui costui che l'hai borrato! Siete voi, dottore Balordo? Che Balordo, che Balordo? Bertoldo! Che Bertoldo, che Bertoldo? E andate il diavolo, e andate il diavolo! Dottore Bartolo, dottore Bartolo, dottore Bartolo! Ah, bravissimo! Dottor Barbaro! Bravissimo! Dottor Barbaro! Un corno! Ma benissimo! Già ve poca differenza! Io già perdo la pazienza! Io già perdo la pazienza! Quando parla, dove sta? Qui prudenza ci vorrà! Dunque voi? Siete dottore? Sondatore, sì signore! Qua benissimo! Un abbraccio, e qua, collega! Indietro! Qua! Sono anch'io dottor per cento! Ma gli scalco al reggimento! Dell'alloggio sul biglietto! Dell'alloggio sul biglietto, osservate, eccolo qua! Ah, felice il caro oggetto! L'arcata del dispetto non sapete quel verico! La mia felicità! Anche io forse mi ci metto per le gran bestialità! Dunque lei Sempre oppressa e maltrattata. A che fine?